Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rime dai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione. E buon lunedì a tutti, bentrovati alla nuova stagione di Caffè Paglia all'interno del 50° palinsesto di Radio Città Fujiko. Arriva a confermata, diciamo, nello stesso orario la trasmissione sportiva del lunedì. Un saluto a Mingo da questa parte del vetro, nel salotto buono dello sport bolognese. Di fianco a me, sulla fascia destra, con un Zortea o un Holm che cavalca sulla fascia, la stella della trasmissione, il nostro Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni, nei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Siamo in forma? Siamo in forma, dovrebbe essere la 13ª, 14ª stagione. Adesso devo controllare bene la partenza di Caffè Paglia ufficiale. Ricordo solo che la Juve era allenata da Ferrara, questa è l'unica cosa che ricordo della prima stagione. È stato bellissimo. Ed è stata una stagione meravigliosa. Vedremo, diciamo, un fine settimana non benissimo dal punto di vista dei risultati. No, direi di no. Risultati, però insomma avremo tanto modo fino alle 12:30 di chiacchierare. 333 180 94 94 per i vostri messaggi, per WhatsApp, Telegram, SMS, piccioni viaggiatori, insomma quello che volete, parlare con noi. Puntata appunto che sarà un po' un recap di quello che è successo all'inizio del campionato, con l'estate che, come spesso capita, è un'estate tesa per il tifoso del Bologna, a guardare i messaggini dei vari siti del mercato per capire chi va via, chi allora non... Diciamolo subito: calcio mercato, malattia senile del capitalismo. Sì, possiamo dire, okay. oltre alla cosa che non capisco assolutamente, è una finestra così grande per comprare tutti nell'ultima settimana. Fatela di una settimana, così, cioè, no? Possibilmente fatela di una settimana prima della prima di campionato. Prima della prima di campionato, dovrebbe essere così, l'ha detto anche il mister italiano dopo la prima giornata, ha tirato fuori questo argomento. È vero che è così per tutti, però è sbagliato per tutti, infatti siamo d'accordo su quello. E quindi, diciamo così, un po' per riprendere le squadre, cose del genere, insomma, ci vuole un po' più tempo del normale. Si inizia il campionato, è la terza giornata, c'è già stata la pausa, la prima pausa della nazionale. È un Bologna che, è vero, rimane con la stessa guida tecnica, una delle poche squadre di vertice che rimane con la stessa guida tecnica dell'anno scorso, ma cambia molto in particolare nei due uomini che non ci sono più, due pilastri della squadra dell'anno scorso che ha portato, non l'abbiamo ancora ricordato, a vincere la Coppa Italia. È ancora confermato. La Coppa Italia De Pallò è confermato, perché ho visto la squadra di Bologna con una coccarda in mezzo alla maglietta, quindi è confermata, non era un sogno che avevamo è accaduto. Due giocatori fondamentali, in particolare per quanto riguarda sia Bokeva che Ndoye, nei due lati, diciamo, del campo. Ndoye aiutava molto anche nella parte difensiva, oltre che aver fatto tanti gol nella stagione scorsa, cosa che non aveva mai fatto nelle stagioni precedenti. Dicevamo, la guida tecnica è la stessa, però l'impostazione della squadra evidentemente ha ancora qualcosa da rodare. Non è un caso che in classifica, è vero che la classifica adesso non si deve guardare perché non ho ancora visto Castagni, Caldarrost in giro da... No, la temperatura fatto. Quello non lo consente. Non lo consente ancora. Quindi insomma, è una classifica che tendenzialmente la guardiamo così, però le due squadre in questo momento in testa alla classifica sono le altre due che hanno, insieme al Bologna, quelle di testa, che hanno tenuto lo stesso allenatore. È un caso, non è un caso. Sono Napoli e Juventus, ovviamente, Tudor subentrato a Motta, allenatore della Juve, e Conte, ovviamente, che si è confermato sulla panchina dei campioni d'Italia. Quindi è un caso, ma forse no. Tra l'altro anche Udinese che è al terzo posto allo stesso allenatore. Incredibilmente Costa Rugnaz per il momento sta spiegando. In questo momento è vero che mancano ancora due bellissime partite, programma da classico calcio italiano da esportazione per far amare, appassionare il mondo del pallone. Dovremmo avere ancora da giocare Verona Cremonese. No, non vuoi andare al Bentegodi alle 18:30 di un lunedì pomeriggio a vederti Verona Cremonese? Beh, bello anche, immaginati, non so, un preserata, una serata a Pechino, non so, una cosa del genere. Ti guardi Verona, cara, questa sera non ti porto fuori perché c'è Verona Cremonese. E poi Como Genoa chiude, diciamo così, la terza giornata, quindi mancano due partite per definire la classifica con tutte le squadre che hanno giocato le stesse partite. C'è una Cremonese ancora potenzialmente imbattuta, può ambire alla vetta. Leggevo, vabbè, ovviamente la Cremonese ha comprato Vardi, che insomma è un personaggio che ha vissuto una delle ultime favole del calcio degli ultimi tempi, quella dell'Leicester, davo un'occhiata, la Cremonese ha iniziato come quell'Leicester. Cioè due vittorie subito, una fuori, una in casa, come l'Leicester di Ranieri, e la terza la pareggiò. Quindi volete mettere la casa sull'X di Verona Cremonese, lo potete fare, un consiglio per i ludoni che sono anche perché alle 18:30 di lunedì come potete passare il vostro tempo meglio di così. Tre partite giocate dal Bologna in cui abbiamo visto varie possibilità, vari scenari, vari modi di interpretare il Bologna. Un Bologna che sì, ha cambiato, rinuncia a due protagonisti della scorsa stagione. L'impianto di gioco dovrebbe rimanere quello, i risultati sono alterni e altalenanti. Allora, se vogliamo proprio guardare i numeri, solo freddi numeri, il Bologna oggi ha un punto in più dell'anno scorso. Questa, se non sbaglio, questo ce lo dice la scienza. Due pareggi e una sconfitta l'inizio della scorsa questo stagione. Questo è dato oggettivo. E quindi ne abbiamo tre, diciamo, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo guardarlo da quel punto di vista lì. Dicevi, partite molto diverse anche con tre squadre comunque interessanti, quindi una partenza forse un po' più dura rispetto a quella dell'anno scorso, perché la Roma è un progetto interessante, quello di Gasperini, cambio tecnico e anche un mercato strano, particolare. Il Como, mercato, reginetta del mercato, voto 9, 9 e mezzo, 10, 30 e lode, non ne parliamo più, da parte di tutti i grandi critici di calcio che reputano in qualche modo molto positivo che una squadra possa fare 95 milioni di euro di mercato in entrata e 4 in uscita, perché tanto non fa le coppe europee, non deve rispettare nessuna regola relativa al bilancio, puoi mettere liquidità all'infinito, sì, senza fair play finanziario. Avevamo già parlato, i due fratelli che guidano il Como sono talmente ricchi che se litigano e uno prende la Cremonese diventano primo e secondo. Però la favola cremonese subirebbe un brutto colpo. Però questa è la situazione della dirigenza del Como. Comunque Como battuto dal Bologna 1-0 e poi il Milan che ha ripreso un personaggione scomodo ma anche scomodo da guardare. Scomodo da guardare, scomodo da affrontare, perché mi sembra che il piglio di Allegri sia già entrato nella squadra rossonera. Squadra rossonera che l'anno scorso era comunque di qualità, ma organizzata in maniera terribile, possiamo dirlo, perché tra Fonseca e Conceição non ci ha capito molto. Il Milan è riuscito nella grande impresa di licenziare un allenatore portoghese scarso per prendere un altro allenatore portoghese scarso dello stesso procuratore. Però dello stesso procuratore, che è un'operazione spericolata. Penso gli abbia fatto uno sconto, no? Sul doppio. Almeno sulla commissione. Sulla commissione, sì. Ne paghi una sola, non ne paghi tutte e due se prendi lui. Bene per il Bologna, perché proprio il Milan è stato incontrato nella finale di Coppa Italia. Un Milan che era, come nomi, una bella squadra, ma veramente messa in campo male. Allegri cosa fa? Parte come sappiamo e conosciamo, dalla difesa. È una squadra molto, molto primo non prenderle, questo mi sembra abbastanza evidente. Inizia con una sorta di 3-6-1 in cui in campo troviamo tre centrali e tre buttafuori davanti ai centrali. Sì, esatto, davanti di pronti che se arrivi vicino ti tiro uno schiaffone. Una fascia spensierata affidata ad Alexis Salemakers, una fascia interlocutoria affidata a Stupinan, un giocatore da approfondire secondo me. Sì, un giocatore strano, particolare, parte, è arrivato come difensore al Milan, cioè nel senso è anche listato nelle liste del fantacalcio come difensore, però pare fare insomma soprattutto la parte avanzata, sia uno dei tanti difensori che prova ad attaccare. Dall'altra parte c'è Salemakers, giocatore interessante che noi fa una, abbiamo fa una visto. Grande partita Salemakers, una bella partita. A tratti molto fastidiosa per chi indossava in campo i colori rosso-blu, perché fa fallo e subisce fallo continuamente, diventa uno spezzettatore di gioco clamoroso. Sì, sì. E, Cambiaghi vittima di stalking da parte di Salemakers all'inizio partita. Per il primo tempo c'è veramente una guerra di nervi tra i due. E nel pacchetto buttafuori ci mettiamo anche Loftus Cheek, che deve insieme a Rabiot e Fofana nel ruolo dei buttafuori anch'essi coprire il giovane talento, non so se ne avete sentito parlare, questo ragazzo che viene dall'est, si dice un gran bene di lui, Luka Modric, quarantenne, arriva dal Real Madrid dopo aver macinato chilometri su chilometri, trova ancora la possibilità di illuminare andando in un campionato in cui si corre meno. Questo è la stessa roba che ha detto De Bruyne poi dopo le prime partite, ha detto bello il campionato, mi piace la Serie A, si va più piano. Tutti così tranquilli, tengo cuore italiano come Gerard Depardieu. Davanti in attacco Jimenez, che da un punto di vista di cui calcistico per me è l'esatto opposto di Modric. Sì, non sì, so se condividi sta. Con me questa ci lettura. Ci sta. Non vorrei spingermi oltre con questo racconto. Ha qualità il ragazzo, però evidentemente gli manca quel qualcosa. Credo che non sia facile giocare a San Siro con un po' la scimmia sulla schiena di quello che dovrebbe fare sempre gol e non lo fa quasi mai. Però intorno a te è una squadra che è fatta in modo di proteggere la tua finalizzazione e la costruzione di uno buonissimo, cioè il resto dell'undici titolare è proprio così a muretto. Tra l'altro tre gialli nel primo tempo per il Milan, che dimostra insomma quanto lo spirito allegriano sia entrato in questa squadra. È vero che il Bologna tiene molto il pallone, fa possesso palla, ma neanche un tiro. Questo è il vero problema in questo momento del Bologna di italiano, che ci aveva invece abituato a quello che Galeone chiama il flipper. È stato ritirato fuori Galeone ovviamente prima di Milan-Bologna perché ha allenato Allegri. Certo, per parlare bene di Allegri ci vuole almeno Galeone, che però ha parlato molto bene anche in italiano nella stessa intervista, quindi insomma e ha definito appunto il calcio di italiano quello di un flipper, che in effetti insomma l'anno scorso abbiamo visto più volte. Quel flipper già in questo momento è un po' inceppato. Nel primo tempo il flipper di emozioni c'è, il Milan scende prevalentemente dalla sua fascia sinistra in cui Estupinan prova più volte ad affondare, batteranno nel primo tempo 6 calci d'angolo di cui 5 dal lato di Zortea, diciamo, cioè la nostra destra a difendere, e Zortea non positiva la prestazione, e poi vabbè, daremo una botta di conti sulle prestazioni un po' di tutti, non positiva sicuramente quella di Zortea, non sarà l'unico a deludere nella partita di ieri. Ma il primo tempo regala una partita in cui sembra che possa succedere di tutto, cioè è molto aperta, per quanto il Bologna non tira in porta, e quando lo fa e segna anche con Nicolò Cambiaghi è in fuorigioco che c'è. Sì, quello è abbastanza letto, tra l'altro ne parleremo dell'arbitro, perché c'è un caso abbastanza importante, c'è un rigore dato, non dato, cioè dato poi tolto, che è un po' strano, perché in realtà c'erano due falli da rigore. E quello che viene guardato al VAR è quello che non c'è mai. Quindi il rigore non c'è. Questa cosa in realtà non fa giurisprudenza, perché è la stessa dinamica di un fatto storico totalizzante della, stazione, della stagione del Bologna dell'anno scorso, cioè il 2-2 casalingo con la Roma, in cui viene dato per un tocco di mano assolutamente non sanzionabile un rigore alla Roma allo scadere, perché il primo rigore in cui, in cui c'erano tre falli nella stessa azione, Odgaard viene ucciso da Selic, abbracciato con due mani e buttato per terra a forza, ecco no, in quel caso si decide di assegnare il rigore per un tocco di mano altrettanto ininfluente come quello di Lukumi allo scadere, quindi quella ratio poi sarà la leva a giustificare le decisioni dell'arbitro, che se non sbaglio era Abisso in campo, e che regala un punto immeritatissimo alla Roma in quell'occasione. In questo caso il è ininfluente per il risultato finale, ma c'è un problema proprio logico, cioè il come in sala VAR si seziona l'azione per arrivare a stabilire se il rigore c'è o no. Sì, il rigore di Lukumi c'è, il rigore di Freuler non c'è mai. Il rigore, diciamo, che c'era è quello che non è stato visto dall'arbitro, però una volta che sei al VAR e riguardi l'azione non puoi non vedere che c'è un rigore che non ha fischiato l'arbitro qualche secondo prima. Adesso poi il risultato non è cambiato. Io in quel momento, quando hanno dato quando hanno tolto quel rigore, e Allegri è impazzito, ho detto, ma magari si è tolto la giacca, si è tolto. Era da un po' che non si toglieva la giacca, e ho pensato, adesso la sfanghiamo, la portiamo a casa con una botta di culo, decidiamo di non tirare mai più, perché noi sapevamo che quello era rigore, per quello l'abbiamo fatto, quindi è un 2-1 interno interiorizzato, già interiorizzato, e quindi insomma era così, quindi non andiamo a cambiare risultato, perché sennò può succedere. Sì, l'attacco in particolar modo non riesce a produrre tiri proprio. Abbiamo visto qualcosa di Rowe tra le novità, l'esordio di Rowe, però a fine partita, cioè 15 minuti più o meno giocati, ancora abbiamo visto qualche scatto, insomma, dal punto di vista fisico dicono essere un animale, quindi insomma un ottimo giocatore, ancora non possiamo dare un giudizio completo. Ha un rapporto di scopa amicizia col pallone, possiamo dire, cioè gli piace molto quel senso del possesso che fu pre-alessandrino, come diceva Battiato, però sì, insomma, lo vedremo nel corso della stagione, ci sono delle cose sicuramente interessanti. Nell'organizzazione tattica di un Bologna come quello che abbiamo visto ieri, quello che preoccupa è che dopo un primo tempo che per me è buono, perdi gambe e anche idee e anche testa. Sì, non so quante delle, cioè se una cosa qual è quella che è causa e qual è reazione in questo caso, però è evidente che qualcosa manchi. Manca ad esempio quell'Odgaard che ci ha fatto sognare l'anno scorso, non è ancora nemmeno il parente fisico di quello, perché la grandezza di quell'Odgaard che cambiava le partite era unire una fisicità importante a una tecnica di qualità. Adesso mi sembra proprio ancora molto legato fisicamente, si vede. Gli manca il passo. Hanno fatto l'operazione, insomma, sappiamo, un percorso lungo. L'altro è Ferguson, che ha giocato, è vero, 90 minuti con le nazionali, dopo aver preso una pausa invece con il Bologna, non è ancora a livello top, diciamo così. Un paio di giocatori così è ovvio che al Bologna mancano. Impiegato come interprete più basso di questo centrocampo verticale, chiamiamo, in cui Ferguson, Freuler e Fabian fanno da spina dorsale di questa squadra. Una delle possibili risposte all'antico tema non lasciamo il centrocampo, le chiavi del centrocampo a una squadra di Allegri. Esatto, questo era. L'idea non sbagliata, secondo me, del mister. Sì, l'ho sbagliata, anche se probabilmente io al posto di Fabian avrei pensato più a un giocatore un po' più in copertura, in grado di difendere su Modric un po' in maniera più costante. Perché raccontiamo il gol. È una ripartenza non così rampante del Milan, che si concretizza quando a un certo punto Fabian decide di presidiare il dischetto del rigore guardando Skorupski, che è proprio una roba importante e da fare. Zortea, vedendo Modric che cammina verso la nostra area, decide di seguirlo alla stessa velocità. Esatto. Quindi Modric da solo, solissimo. Sì, perché Sanemaker si ferma a tempo di guardare, decidere se fare il cross sul secondo palo oppure fare un'altra cosa. Vede Modric, che comunque cammina, non è che corre, che arriva lì nella zona poco sopra il dischetto del rigore, il passaggio è perfetto da parte di Sale Makers, e Modric da solo la segna. Primo gol per lui, ovviamente, tra l'altro 90 minuti giocati da Modric. Alla sua velocità, però è vero che quando tu conosci il calcio così tanto come Luka Modric hai la possibilità di prevenire, no, quello che sta per accadere, quindi anche camminando poco puoi dare una grossa mano alla squadra, in particolare se ti circondi, ti butta fuori, questo è più facile. Ricordo un po' il Pecci della fine della carriera a Bologna, quando faceva appunto correre gli altri, ma lui faceva correre la palla, ecco, più che altro. Modric, insomma, c'erano dei dubbi sulla sua tenuta dal punto di vista fisico per un campionato di alto livello. Diciamo che a sto passo qua, per ora, se non gli dai fastidio, diciamo così, se non gli metti qualcuno addosso che gli crea, insomma, gli faccia un po' avere almeno il fiatone, diventa problematico. Per quanto riguarda anche Castro si sbatte tantissimo nel primo tempo, si nota di più perché poi nel secondo tempo smette di arrivare qualunque tipo di pallone davanti, però lo sbattimento, diciamo così, in questo modo rimane lì, relativo. Sorpresa, diciamo così, la scelta dei due mancini dietro, Eggem e Lukumi. Allora, io ho visto una prestazione positiva dal punto di vista proprio della difesa pura di Eggem, che però a impostare fa tanta fatica. Ha una buonissima intuitività nel posizionamento senza palla. Ha un bel fisico. Ha un bel fisico. Bello. E se vai a vedere, c'ha un'accuratezza di passaggio al 96%, perché sono tutti passaggi o a Lukumi o a Skolupski. Ah sì, più o meno. Ecco, cioè, perché non imposta, di fatto non imposta. La passa di fianco. Lukumi prova di tanto in tanto il lancione, che è una qualità su cui sta evidentemente lavorando molto in allenamento. Abbiamo visto il gol col Como, nasce da uno scavalco di Lukumi che poi innesca l'azione del gol. È interessante come chiave possibile. Abbiamo visto Bernardeschi, allora, visto che quest'anno è stato un po' il mercato degli over 30, diciamo così, in generale, non solo per il Bologna, che ha comprato Immobile e Bernardeschi, acquisti non un po' strani, fuori non sartoriani, esatto, fuori dall'idea che abbiamo del mercato di Sartori, quasi a voler dire creiamo un instant team. Che possa, in NBA si dice così, no? Quando vai a prendere dei giocatori free agent che possono stare da te un anno solo, perché dopo col salary cap sballi, e allora li prendi un anno che sono il mercato per vincere quell'anno lì, no? E allora prendi quei due giocatori che ti possono mancare e servire. Però l'idea era un po' questa, nel senso che non vai a prendere Immobile e Bernardeschi per una roba sul medio. In particolare medio Immobile lungo. È difficile immaginarlo nel 2027, ecco. Ma è vero che appunto con un campionato che è un filo fisicamente un po' più indietro rispetto agli altri campionati, puoi pensare che come Modric anche altri possano giocare, però Bernardeschi non ancora. No, direi di no. Affascinante la dichiarazione del mister Vincenzo Italiano, vediamo quanto ci mette a diventare un giocatore italiano, a ritornare a essere un giocatore italiano. Sì, non lo so se aspetteremo. Perché è diventato un giocatore canadese intanto. Esatto, un po' canadese, ha giocato là, era molto più tranquillo. Siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria, rientriamo dopo ovviamente con la top 5. La top 5! Rientriamo, seconda parte di Caffè Paglia di quest'oggi, come l'anno scorso, confermatissima la top 5, che racconta le 5 cose che ci hanno colpito di questa giornata non ancora terminata, ovviamente, come spesso capita nel nostro campionato spezzatino. Che poi le giornate sono 3/4, cioè sì, esatto. Dobbiamo fare un po' di punto della situazione. E quale modo migliore di iniziare la prima top 5 della nostra stagione radiofonica salutando le nuove arrivate in Serie A. Iniziamo da lì, diamo un'occhiata, partiamo dal basso, andiamo a risalire dal basso, perché momentaneamente tra le tre neopromosse quella che occupa il gradino più basso della classifica è il Pisa che ha già giocato le sue tre partite e ha portato a casa un punto solo. Pisa che si è affidato a Gilardino, che l'anno scorso era al Genoa Arena. Aveva iniziato anche non malissimo, ma poi è stato insomma mandato via e per la squadra ha avuto un buon risultato il cambio di allenatore, no? Passare con Vieira. Pisa che appunto si affida a Gilardino, Pisa che comunque ancora ha una squadra diciamo abbastanza scarsa. Sì, dire. Abbastanza scarsa. È rimasta un po' l'impostazione dell'anno scorso. Sia a degli interpreti dell'anno scorso che hanno fatto molto bene in Serie B, sempre in porta, Idris Satouré, giocatore molto interessante, Tramoni, e ha fatto anche un mercato esotico a tratti, un po' laboratorio, cioè prendere Cuadrado è un'operazione che tu avresti fatto mai nella vita? No, ma non avrei preso neanche Ebisher, io lo sai che non amo il nostro ex svizzero, però insomma è lì in mezzo al centrocampo, può essere che nel Pisa possa anche tornare utile. Pensa, Ebisher io l'ho consigliato in chiave fantacalcio a molti amici che vivono lontani da Bologna dicendo: questo qua va a Pisa, le gioca a tutte. Beh, questo può essere. Non ho detto come le giocava, però insomma per il momento il Pisa marca un punto perché al debutto pareggia la prima contro l'Atalanta di Juric, squadra scommessa anche quella, con delle idee. In questo momento un punto in tre partite è un po' poco e effettivamente sembra, tra le squadre di cui parleremo in questo mini blocco dedicato alle neopromosse, quella più in difficoltà. In difficoltà anche se insomma, ha perso due partite 1-0, quindi sì, comunque sì, rimane rimasta in gioco, e la seconda l'ha persa con la Roma di Gasperini. Andiamo su con la classifica per vedere dove troviamo le altre neopromosse. Troviamo il Sassuolo che ha affrontato la Lazio, ha vinto la prima partita dopo due sconfitte contro la Lazio. Una vittoria clamorosa, protagonista il portiere del Sassuolo, che chi è? Indovinate un po'? No, non è lui, voi pensavate fosse ancora lui. Così invece, mi dici? No, non può essere sempre. Tra i pali Muric è probabilmente il migliore dei suoi. Una partita matta in cui a un certo punto rischia di rimanere in 10, già al 24esimo il Sassuolo, il rosso poi diventerà giallo dopo consulto VAR, e la parità numerica in campo rimarrà per tutta la partita. Una partita in cui la Lazio appare legata, matta, dura, difficile. Alla fine un gol di Fadera, unico movimento in uscita del Como, tra l'altro segnaliamolo per gli amanti delle statistiche, su assist di Muaremovic, da non confondere con Mula Omerovic, ex Fortitudo, da non confondere con, per l'appunto, regala tre punti pesantissimi al Sassuolo, allenato da Fabio Grosso. Sassuolo che ha tra le squadre che devono sostanzialmente salvarsi là davanti una bella batteria, perché comunque l'attacco non è male, sì, in effetti Berardi da un lato, l'Oriente dall'altro, il Pinamonti in mezzo, non è affatto male. Pinamonti tanto criticato spesso, però doppia cifra ci va spesso. Berardi è stato anche un giocatore da doppia qualche anno fa, attenzione. È vero che ha qualche anno in più, insomma, però in questa Serie A in cui si va più piano, certo, può dire ancora la sua. Attenzione a chi fa il fantacalcio, perché il gol bruttino che fa il Sassuolo è legale grazie a un giocatore della Lazio che tiene in gioco chiunque, che è il capitano Zaccagni, che prende secondo fantacalcio 6,5. Sì, una cosa vergognosa. Ma saliamo ancora un po', perché abbiamo a che fare con la prima rivelazione di questa parte del campionato, momentaneamente, però ne hai giocate due, le hai vinte tutte e due, sei neopromossa, sei la Cremonese e ti sei presa anche il lusso di vincere la prima a San Siro. Come l'hai vinta? Poi con una rovesciata clamorosa di Borazzoli, che aveva già segnato, il tifoso dell'Inter, Borazzoli aveva già fatto una rovesciata contro il Milan, e insomma non sono tanti quelli che possono bissare, no, un gol di quel tipo, però è partita sicuramente bene la Cremonese, che appunto ha vinto contro il Milan all'esordio e poi contro Sassuolo 3-2, una partita combattuta tra ne promosse nella seconda giornata. Adesso ha il Verona, ovvio che insomma anche il Verona non è partito benissimo, un punto in due partite, però il Verona sappiamo essere squadra poi può che fare scopri, qualunque cosa e il suo contrario. Scopri poi durante l'anno, no? Perché c'è tanti quei giocatori che escono, quelli che vanno a bussare alla porta. Io sono un giocatore di calcio. Bella vieni, ketchup. Ma hai già mangiato? Cioè, sì, allora vieni, sali cioè, su anche ha te. Ha comprato uno che si chiama Bella Ketchup. Anche ma perché aveva un bel nome, capito? Solo per fare marketing, non per altro, solo per quello. Il più affascinante è il ragazzo di evidenti origini africane che si chiama Orban di cognome. E c'è Orban, esatto. Quello pure. Mi piace molto, anche lui. Pure un Orban. Io in questo esotismo del Verona ho puntato su un attaccante che si chiama Giovane, Giovane. Ed è effettivamente giovane. Ah, è giovane. È filologico. Ma lui sì. Cambierà nome un po' con l'età. Con l'età. Come sì. Riberto Luciano. Diventerà a un certo punto maturo, non so, una cosa del genere. Potrebbe cambiare nome. Vedremo, era il Chievo Verona in quel caso. L'Eriberto che cambiò nome. Comunque, occhio che la Cremonese è una squadra di Davide Nicola, di quelle costruite sulla forza del gruppo. Eh beh, Nicola, sappiamo, lo conosciamo. Allenatore che da questi microfoni ha ricevuto solo apprezzamenti negli anni, comunque, lo possiamo dire. Ci piace, Nicola ci piace, ci sta simpatico. Questo per quanto riguarda le tre neopromosse, vedremo la Cremonese se riuscirà a essere insieme a Napoli e Juventus. Potrebbero essere queste tre le capoliste del campionato, Allora, in realtà non c'è margine per farle diventare capoliste, perché comunque ne hanno già giocate tre e non le hanno vinte tutte e tre come le effettive capoliste in questo momento, ma possiamo chiamare sorprese del campionato momentaneamente due squadre su cui effettivamente noi non avremo scommesso un euro. Su una squadra non avremo scommesso un euro per assenza di stampa, su un'altra per troppa stampa. Per esagerazione, di stampa, abuso di stampa. Abuso di stampa. Perché sì. Se io, come diceva Lucio Dalla, la signora ci stampa il giornale e ce lo fa comprare, se io devo sentirmi dire dalla Gazzetta dello Sport che il mercato del Torino è da 8 e io lo vedo cosa è successo nel mercato del Torino e lo so che non è da 8, io li mollo là, poi questi vanno in campo e giocano a pallone anche in modi... Iniziano malissimo perché perdono la prima contro l'Inter in maniera clamorosa e lì partono tutti quelli che hanno letto la Gazzetta e quell'8 dato al mercato subito dopo l'Inter Torino, secondo me si sono divertiti, diciamo così. Però zitto cacchio va a pareggiare con la Fiorentina, la seconda partita in casa, 0-0, è vero, non una bellissima partita, però va a vincere a Roma. Vittoria suggellata da un gol clamoroso di Simeone che avvia l'azione, serve in Gonge, va da solo col passo di Simeone. Cioè, col passo di Simeone, davanti a sé trova Mancini che difende da masterclass di come non si difende di fronte a uno col pallone al limite dell'area, una roba fantastica, cioè, e a giro la piazza lì neanche l'ottimo Svilar può farci niente. 1-0, risultato così pesante in casa all'Olimpico contro la Roma, 3 punti pesantissimi per il Torino che a questo punto ci fa dar ragione persino ai giornali di Urbano Cairo, se non al mercato di Urbano Cairo. Esattamente, insomma, una roba del genere. Noi l'anno scorso ne avevamo parlato che al Torino nel mercato di gennaio sarebbe servita una punta e hanno comprato tutti altri giocatori. Quest'anno hanno comprato solo delle punte, solo delle punte. Per essere sicuri, ne hanno tante. C'hanno ancora Zapata che dovrebbe tornare in questi giorni, insomma, è tornato ad allenarsi, non è ancora, ovviamente ha perso tutto l'anno. Poi c'è Adams, oltre a Simeone che appunto ha segnato. Quest'anno, insomma, di punte ne hanno il Torino e quindi in questo momento, diciamo, Udinese, che anche l'anno scorso era partita fortissimo, vi ricordate la quarta, quinta giornata era in testa alla classifica dopo il pareggio col Bologna, no? Che avevamo detto, ah, questo pareggio con l'Udinese del cavolo, le ha vinte tutte, tranne il pareggio del Bologna, le altre le ha vinte tutte, rivalutando quel pareggio iniziale del Bologna. Adesso ha 7 punti, comunque è subito lì da sola al secondo posto in questo momento in attesa della Cremonese. Sull'Udinese io spenderei una parola per Iker Bravo, giovanissimo, promettente, percorso di cantera di quelle che non succedono per caso, perché comunque Leverkusen, Real Madrid ha fatto solo dei top club da ragazzino, e trasferito a titolo definitivo per pochi soldi all'Udinese. Lui ha rilasciato un'intervista in cui dice: a me alla fine giocare a pallone non è che mi piaccia così tanto, che i lavori degli altri sono l'inferno. Esatto. E io come faccio a non volerti bene, ragazzo? Cioè, io ti voglio bene. Sei proprio bravo. Gol da 3 punti per lui ieri sul campo del neopromosso Pisa. Gol non bello, c'è una fase difensiva del Pisa molto confusa nell'azione del gol, però Iker Bravo lo fa e sono 3 punti per l'Udinese che è lì a 7. È interessante anche la parte dietro dell'Udinese, mi sembra che sia molto interessante. I tre dietro, Solé, Driblomane, un giocatore del mio di cuore, nel nostro cuore, Christiansen che sta giocando molto bene, e Bertola che è appunto anche lui, insomma, si dimostra una buona squadra anche dal punto di vista difensivo. Le due sorprese, diciamo così, se saliamo, cambiamo punto e andiamo a parlare di quell'incrocio, ne abbiamo già citati, un incrocio strano con due allenatori, uno che va di qua, uno che va di là. Ad esempio, voi avreste preso Juric? No. Se foste la presidenza dell'Atalanta dopo aver chiuso, come sappiamo, l'esperienza con Gasperini, io non l'avrei preso. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo straordinariamente poco, ma neanche in un motore a possibilità infinite io avrei assunto Ivan Juric, sincero. Però insomma, l'inizio è un po' particolare, con due pareggi. Questa domenica invece si sfoga l'Atalanta con un risultato che ricorda un po' l'Atalanta di Gasperini, no? Il 4-1 contro il Lecce di Di Francesco, salutiamo il nostro Di Francesco, e non diciamo nulla di lui. Non diciamo nulla perché ci siamo già interrogati abbastanza sulle sue caratteristiche, diciamo. Esatto. Vince una partita diciamo nettamente con 4 gol, poi arriva il 4-1 all'82esimo. Bel bollo. Bel gol, però abbastanza inutile, diciamo così, dal punto di vista del risultato finale. Si ritrova un ottimo De Ketelaere. Questo può essere uno dei segnali più interessanti. Giocatore strano, giocatore che... Umorale. Molto umorale. Giocatore che arriva al Milan dopo una stagione in Belgio ottima. Fa una stagione sottotono al Milan, viene considerato uno scarpone praticamente. Ai margini del progetto, ma e anche proprio nel gruppo probabilmente non era integrato neanche un po'. Va invece all'Atalanta e inizia comunque a far vedere le sue caratteristiche, fa una ottima prima stagione all'Atalanta, quella dopo che doveva essere quella della conferma invece un filo altalenante, adesso parte, insomma... È un campionato importante per De Ketelaere, per capire qual è il vero De Ketelaere. È molto interessante anche come sono entrati. La difesa del Lecce ha aiutato molto lo svolgimento di questa traccia, diciamo. Ma come sono entrati appunto l'ex Lecce Krstović, attaccante titolare al centro del progetto Atalanta, altra cosa che in un motore a possibilità infinite non necessariamente avrei fatto, sincero. E... soprattutto mi affascina Zalewski ha giocato molto bene, devo dire. Arriva dall'Inter, il giro cos'era, Roma, no? Roma, Inter, Atalanta, spazio trovato dal ragazzo molto poco negli ultimi anni, acquistato a titolo definitivo, sembrava una specie di kick per l'affare Lukman, cioè sembrava che Zalewski fosse stato strapagato dall'Atalanta per poi recuperare sul caso Lukman. Ungere il trasferimento di Ademola Lukman. Lukman invece ha vissuto l'estate di Cop Miners dell'anno scorso, con un finale diverso però. Un po' perché l'Inter più di tanti soldi non le tirava fuori, mentre la Juve alla fine li ha tirati fuori, quelli che chiedeva l'Atalanta per avere Cop Miners. Lukman che rimane all'Atalanta in questo momento fuori, Juric che comunque come allenatore non è dei nostri preferiti, ma come uomo alla fine è simpatico e fa delle belle conferenze stampa e ascolta anche musica particolare. Ascolta anche Caffè e Paglia, probabilmente. Ascolta anche Caffè e Paglia. Mi è piaciuto quando ha detto: io basta, non devo più chiedere a Lukman come sta, cioè deve entrare lui nel gioco, deve aver voglia di essere all'interno del progetto. Vedremo, potrebbe essere un'aggiunta interessante a questa Atalanta che abbiamo visto, no? Hai detto questa Atalanta, quell'altra Atalanta era quella di Gasperini. Gasperini a Roma ha fatto tutto il contrario di tutto, e di partite ne ha giocate solo 3. Ne ha giocate 3, ha già riempito la rosa delle tipologie di partite. Vince col Bologna, devo dire, probabilmente senza l'errore di Lukumi sarebbe stato un pareggio scritto pesantissimo, diciamo così, sì. Quel Roma-Bologna, però per iniziare con la vittoria aiuta a Roma. Aiuta dappertutto, ma Roma in particolare, ma Roma ancora di più. E poi vince la seconda 1-0 anche lì a Pisa contro la neopromossa Pisa. Non irresistibile neanche quella Roma lì. No, non una Roma Gasperini, ancora non una Roma gasperiniana dal punto di vista del gioco. Poi si trova il Torino, il famoso Torino che, di cui parlavamo, e lì si blocca un po' tutto. È vero che insomma la Roma ancora avrà tempo per Gasperini, anche all'Atalanta ci mise un po' a entrare, no? Dentro alla testa dei giocatori. In questo quindi... momento però i sei punti che ha già fatto sono dalla sua. Esatto, il vantaggio anche di aver vinto le prime due. Le prestazioni non sono poi state mai irresistibili. Là davanti c'è un po' di casino. È ovvio che la prossima c'è il derby, quindi inizia a essere interessante. Derby cui la Lazio arriva con Sarri che non si presenta ai microfoni dopo aver perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ufficialmente motivi familiari, ho letto, però non so se... In bocca al lupo a mister Sarri, e basta. Però la Lazio non ha fatto andato. Mercato quest'anno, era bloccato il mercato della Lazio, quindi... Voto al mercato della Lazio, 9. È Lotito che ha dato i nomi, i voti. Sì, sì, perché se li da Cairo li può dare anche Lotito, ha ragione. E 9 perché non ha speso niente, quindi lui è felicissimo. Chiede tutti gli anni di bloccarli. Ci abbiamo il mercato bloccato, ma no, è scaduto. No, è bloccato. Potrebbe rimanere così a vita. Sarà un derby interessante, appunto. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta 1-0. Entrambe, quindi insomma, con delle similitudini. Vedremo la prossima, appunto, come sarà. Poi andiamo avanti. Abbiamo un punto che siamo stati costretti a inserire così, in questo modo, tale quale, perché il derby d'Italia non è una partita come le altre. E un derby d'Italia che ha un epilogo così sconcertante meritava un posto in top 5. Sì, assolutamente, cioè, difficile da pronosticare questo 4-3 per la Juve, perché almeno io pensavo una partita più chiusa, una roba cui... un 1-1 bruttino, una roba così. Abbiamo visto anche gli 0-0 brutti tra Inter e Juve, no? Trattandosi tra l'altro di due squadre che non abbiamo ancora ben chiaro come intendono giocare a pallone nell'economia della stagione intera. Sì, diciamo, per due motivi diversi. Uno perché ha cambiato allenatore, prendendo un giovane allenatore interessante come Kivu, dopo aver chiuso il percorso di Simone Inzaghi. L'altro perché ha avuto un mercato praticamente negli ultimi tre giorni. È uno di quelli che di quegli allenatori che sarebbe d'accordo con me nel dire facciamolo di una settimana. Facciamo tutto su me, tutta quella basta. Settimana lì e poi basta. Perché e quindi avrà bisogno di tempo anche per far entrare i nuovi acquisti all'interno della squadra. Questo è quello che dico. Quindi è una Juve che parte già con tre vittorie e ancora deve aggiungere, può aggiungere cose, ecco, diciamo così, in un certo senso. È vero che insomma il risultato, mi è piaciuto Tudor che ha detto forse il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio. È vero, abbastanza vero, probabilmente era quello. È un bello scaldabagno che invece decide la partita. Il tiro è bello. Il tiro è molto bello. Sommer non fa la miglior cosa possibile. Sommer fa una brutta partita. In generale una bruttissima partita. Due gol sono suoi in modalità sedia. Sì. Beh, certo. Allora, il secondo ho sentito Marchegiani, che è un portiere, io di gol così li ho presi nella mia carriera. In effetti, insomma, tutti i portieri li hanno presi. Marchegiani comunque buon portiere a livello della Serie A, insomma, perché ha giocato anche in nazionale, quindi può dirlo. Lui sbaglia perché fa un passo indietro. Quando la palla arriva a Zic, Sommer fa un passo indietro, perché era un po' avanti per quindi su capire. Un pallone alto ha meno incisività, soprattutto l'estensione laterale venendo da dietro ovviamente è più corta. Se fai un passo in avanti e ti tuffi a destra, alla sua destra copri più angolo, quindi può essersi che alla fine sono piccoli errori che però rimane un bello scaldabagno. Piccoli errori che consentono a Sport Mediaset di titolare Azic il De Bruyne montenegrino, scrivendo proprio una pagina di miseria intellettuale devastante, ragazzi. Povero Azic, a me dispiace, perché comunque è uno che gioca a pallone, avrà i suoi miti, le sue passioni, è anche molto giovane, ma raga, ma fa così, no? tra l'altro, far così, eh. Asi, se non sbaglio, gli ultimi giorni di mercato sembrava dovesse essere dato in prestito al Palermo, se non sbaglio, no? Sì, sì, a fare il co-titolare in B. Esatto, a giocare in B. E invece rimane lì, rimane anche per età della Under 23 della Juve, però la decide lui. Gli altri gol segnano due Thuram, con anche un siparietto non irresistibile, perché non si fanno queste cose, non va bene. Esatto, ma se la ridono, se la giocano. Ve le fate in casa sul divano a casina, perché esatto, così non davanti si agli occhi del babbo, che era lì che guardava. Segnano appunto uno di qua, uno di là, poi c'è anche tanta Turchia, perché sono tre gol turchi. Clamoroso. Due di Çalhanoğlu, uno di Yildiz e Kelly, ecco. Il gol di Kelly è veramente allucinante. È molto bello il gol di Kelly. Cioè, del delirio che c'è lì davanti. No, è bello perché Bremer fa una roba che nessuno immagina, un passaggio un po' tagliato lì in mezzo. Ma lui è fermo da due minuti, un minuto e mezzo. Perché ha detto, ma quello è Lloyd Kelly, ma va là. Sì, nessuno lo guarda, Lautaro, lì sbaglia molto Lautaro, che guarda, dice vabbè Kelly e se ne va. Prestazione brutta di Lautaro. Sì, questo uno di quelli che ha giocato male. Male, esatto. Manca lui per fare il salto di qualità all'Inter. E questo è, insomma, quindi buona la partenza di Tudor. Vedremo, insomma, se può continuare, se può essere la Juve l'unica vera avversaria del Napoli. Perché per il momento lo possono perdere solo loro. Rega, non c'è niente da fare. Ha anche bollato Beuke, ma a Firenze, rega. Cioè, ha fatto pure gol Beuke. Io capisco, cioè, alla prima io partita. Capisco che la querella Ndoye-Napoli ci ha ricordato tre mesi di Calafiori, titolare con la maglia della Juve in tutte le possibili formazioni, una di quelle cose orchestrate da grandi critici di calcio, perché il calciomercato, malattia terminale del capitalismo, è comunque capitalismo di relazione, quindi ha dinamiche mafiose, stacce, e quindi c'è anche una discreta antipatia verso la società Napoli, però bisogna dire che quest'anno le hanno fatte abbastanza giuste. L'anno scorso, diciamo, l'Inter l'ha buttato via il campionato, l'Inter era più forte del Napoli, poteva vincerlo, insomma, con un po' più di attenzione poteva vincerlo. Se guardi il mercato, il Napoli è migliorato, l'Inter è peggiorata. Quindi l'unica squadra che è stata lì con il Napoli l'anno scorso è calata. Adesso poi magari cresce, ci sorprende, e Chivu è un grandissimo allenatore. Però, diciamo, vista così, loro a un certo punto avevano preso Lucca, avevano Lucca e Lukaku, così avevano anche facilità nel chiamarli. Gli si fa male Lukaku, comprano Højlund, non Stupazzoni Erminio, per quanto Stupazzoni è fortissimo, e quindi insomma mi sembra che sia quello, lo può perdere solo il Napoli. Rientriamo per la terza parte, anche quest'anno Caffè Paglia dedica la terza parte al calcio internazionale. E qual è il primo campionato che è partito? Proprio quello belga, il nostro amato campionato belga, che vede tra l'altro in testa, dopo sette giornate, hanno già giocato sette giornate, l'Union Saint-Gilloise, avversario dell'Inter in Champions League. Al secondo posto troviamo la sorpresa, il Saint-Étienne, che è veramente sorpresa, le scorse annate spesso la trovavamo in fondo alla classifica. Non è partito bene il tuo Standard Liegi, perché è solo dodicesimo, caro Fio. È lì che si attesta nella pool in cui succedono le cose. È vero, lei vuole rimanere in quella pool, però adesso è a 12, è dodicesima, la tredicesima è già in pool salvezza. Lo so, ma la pool Champions è un punto sopra. Ah, ok. Perché vabbè, è così il campionato belga. Beh, cioè, poi lo sarà ancora di più nel corso del campionato. Vabbè, lo seguiremo, diciamo così. Quello più avanti, ma c'è anche la pool scudetto, insomma, tutte queste cose che ormai conoscete. Direi che in assenza di Simone possiamo andare alla Premier League. Possiamo andare alla Premier League, tra l'altro il nostro regista non lo sentirete oggi perché ha perso la voce a Manchester. Esatto, per il derby, è andato a vedere il derby? Sì, sì. È andato a vedere il derby e il City ha battuto 3-0 il Manchester United. Risultato che non ci sorprende. Non ci sorprende, dire. Il Manchester United che veramente continua nel suo essere squadra zimbello, diciamo così, dei campionati mondiali, ormai è può essere definito tale, è 14esimo in questo detto momento. Così è come quando Homer Simpson dal divano, guardando un documentario sulla seconda guerra mondiale, dice: oh, la Luftwaffe, le mega schiappe dell'aviazione mondiale. Cioè, fammi, però è così, è il momento, è quello, ragazzi. Rimane questo. Il Manchester che ha 4 punti, una vittoria, un pareggio e una sconfitta, le ha fatte tutte in queste tre. No, quante partite? Due sconfitte, allora, sì, ancora sì, di sì. Più. Sono due le sconfitte già per il Manchester United. Due sconfitte le ha anche il City, in realtà le ha avute anche il City. Due vittorie e due sconfitte per il Manchester City, che è ottavo, quindi non è partito benissimo. In vetta la classifica, imbattuto per ora, solo Liverpool. Liverpool che ha speso poco sì, nel mercato. Sì, abbastanza poco. 400 milioni, una cifra spropositata. Comunque, appunto, in vantaggio, gli serve un rigore di Salah per vincere la partita. L'ultima partita a contro Burnley. Burnley, però rimane l'unica in vetta a 12 punti a punteggio pieno. Al secondo posto abbiamo un po' la sorpresa, che è il Tottenham, e dopo la vittoria in Europa League, diciamo così, non si vuole fermare, insieme al solito Arsenal, invece un'altra grande pagina di Utopia Gunners in questo momento. Condivide il miglior attacco della Premier con Liverpool e il Chelsea, ma ha la miglior difesa con un solo gol subito, proprio come il Tottenham. Un solo gol subito gli è costata la partita. Tra l'altro, ha tre vittorie e una sconfitta, quindi sicuramente quell'uno da Liverpool, 1-0 da Liverpool. Liverpool che ha speso 145 milioni per Alexander Isaac e 125 per Wirtz, sì, sì, una roba, 250 con due giocatori, clamoroso. Invece a sorpresa, anche se è cresciuta negli anni, il Bournemouth, che è a 9 punti anche lei, insieme a Tottenham e Arsenal. Del resto la vera differenza tra Premier League e gli altri campionati, che anche le piccole spendono molto, le piccole tra virgolette spendono molto, cioè nel senso, la fiche di partecipazione alla Premier League data dai diritti televisivi venduti in maniera esorbitante dalla Premier League, molto di più che da altri campionati, permette anche alle piccole squadre di fare grandi acquisti e quindi di avere tanti soldi da investire sulla squadra. Bournemouth negli anni è cresciuto in questo modo, e appunto davanti ad esempio al Chelsea, altra squadra che due soldini li ha spesi. Chelsea che ha fatto quel mondiale per Club League, comunque, che ha vinto, esatto, squadra campione del mondo in carica. Il Chelsea in questo momento è quinta con 8 punti, poi Everton, Sunderland, e a quel punto arriva all'ottavo posto il Manchester City. Non benissimo neanche il Nottingham Forest. Nottingham Forest ha fatto un casino. Il grossissimo patron del Nottingham Forest ha licenziato Nuno Espirito Santo per ingaggiare uno dei nostri cavalli storici, Ange Postecoglou, che però debutta perdendo male con l'Arsenal. Esatto, 3-0 la sconfitta, la prima sconfitta appunto di Postecoglou, ma 3-0 era anche l'ultima partita di Spirito Santo. Di Spirito Santo. In questo caso il cambio allenatore proprio non è mutato. È vero che aveva perso in casa col West Ham, il Nottingham di Doi, possiamo dire Doi, che era partito fortissimo la prima partita, subito gol, poi assist, insomma era partito bene, però in questo momento il Nottingham è a 4 punti insieme al Manchester United nella parte bassa della classifica. L'altro ieri Arsenal Nottingham, a un certo punto c'era Calafiori che marcava Doi, ed è stato un momento emo potentissimo. Una lacrimuccia è scesa. Abbiamo anche una squadra a 0 punti ancora dopo 4 giornate, il Wolves, che in questo momento è ufficialmente l'ultimo. Con la maglia del Portogallo, come ci piace ricordarlo. E segnaliamo che non ha ancora mai vinto l'Aston Villa, prossima avversaria del Bologna. Il Bologna giocherà Europa non League. Questa settimana, la prossima settimana. Ci tornerà. A Birmingham, e tornerai a Birmingham. E appunto è un grande classico. Le coppe europee, Aston Villa Bologna, sempre là, potrebbero fare una volta di qua, una volta di là, sarebbe stato interessante. No, invece ha già giocato di là, torneremo a Birmingham, torneremo al Heart of Aston a bere delle Guinness post partita, torneremo in quello loschissimo clubino in cui a un certo punto di notte arriva Monchi in camicia bianca, ma di questo non racconteremo oltre, altre cose, non possiamo dire altre cose. Beh, comunque appunto non è una buona partenza per l'Aston Villa, prossimo avversario del Bologna. Cambiamo campionato? Cambiamo campionato, possiamo andare in Bundesliga, dove ci sono notizie positive per le nostre squadre. Il mio Colonia neopromosso è la Cremonese della Bundesliga in un certo senso, perché dopo tre partite ha 7 punti, esattamente come la Cremonese, cioè, se pareggia oggi come l'Ester di quella volta, quindi è già sicuro, quindi è fatta 7 punti Colonia e Cremonese, davanti il Bayern Monaco che ha 3 vittorie, 14 gol in 3 partite, state calmi, e 2 subiti. Quanti ne ha fatti Kane? Ricordiamo che ha stappato la bottiglia, quella famosa, quella famosa bottiglia che suo padre mise in frigo quando ha iniziato la carriera. Questa la stoppiamo la prima volta che vinci qualcosa. Dopo 18 anni è riuscito ad aprire la bottiglia e insomma Bayern Monaco, che ovviamente è la super favorita, 9 punti, il Borussia Dortmund che l'anno scorso aveva fatto un brutto campionato, soprattutto un brutto inizio campionato, dopo era cresciuto ritornando in Champions nel finale del campionato, ma per lungo tempo, fino alla sconfitta con Bologna, se ricordo bene, che costò il posto all'allenatore, la stagione era abbastanza negativa, però in questo momento 7 punti, 2 vittorie e 1 pareggio, come il mio Colonia. Altra squadra simpatia della nostra redazione, il San Paoli a 7 punti insieme a Colonia e Dortmund. Grande inizio, tra l'altro forse già col derby vinto. Sì. Col derby vinto a casa dell'Amburgo, che in realtà credo che siano a 120 distanze in due stadi, cioè abbastanza vicini, trasferta facile insomma per il San Paoli, che vince 2-0 con l'Amburgo. Amburgo nobile decaduta, che è ritornata in Bundesliga quest'anno, quando è retrocessa era la prima volta che retrocedeva col grande counter a Millenthorn che contava i giorni in Bundes dell'Amburgo, e quindi, che si è dovuto fermare, che per la prima volta è salito in Bundesliga, per la prima volta nella sua storia. Comunque Amburgo che in questo momento è penultima, diciamo così, c'è insieme ai Wolves, segnaliamo anche l'Heidenheim che ha 0 punti in questo momento, maglia nera dei campionati europei. Amburgo, Mönchengladbach e Magonza 1 punto, poco sopra l'Union Berlino che ha 3 punti. Come una squadra normale fa 3 punti in 3 partite. 3 punti in 3 partite. Come una squadra normale. Quando è tornato a essere una squadra normale. Esatto. Quello è dopo la parentesi di Bolucci, che l'ha resa una squadra un po' atipica in questo momento. Un bel po' atipica. Altra squadra che in questi anni ha dominato, comunque ha ben giocato in Germania, è il Bayer Leverkusen. È cambiato tutto, è andato via l'allenatore, tra l'altro quello che hanno preso l'hanno mandato via praticamente subito, quindi ovviamente ricostruire dopo Xavi Alonso è difficile. Squadra che ha vinto anche il titolo, con una stagione incredibile, con una sconfitta sola nella finale contro l'Atalanta. Stiamo parlando del Bayer Leverkusen, non ha iniziato benissimo la stagione, e il pareggio con il Werder Brema 3-3 nell'ultima giornata, tra l'altro al 95esimo raggiunto il Bayer Leverkusen, direi che ha perso contro il l'Hoffenheim, abbastanza clamorosa, e l'ultima giornata invece la deve ancora giocare, forse no, ha vinto contro il Francoforte, ha vinto contro l'Eintracht, Francoforte 3-1, quindi insomma vedremo come sarà la stagione del Bayer Leverkusen. Il Friburgo invece, che sarà avversario del Bologna, ha vinto la sua prima partita nell'ultima giornata contro lo Stoccarda 3-1, e iniziata con il gol dello Stoccarda e finita appunto con la comoda vittoria del Friburgo, giusto per vedere anche qualche avversaria del Bologna come sta andando. Salutiamo la Bundes? Salutiamo la Bundes e andiamo in Spagna a cercare un'altra avversaria del Bologna. C'è anche lì un avversario, il Vigo. Come è iniziato la stagione? Allora, il Celta Vigo ha iniziato un po'. In realtà, una nota comune a queste squadre che faranno l'Europa League con noi: ha iniziato non fortissimo, perché ha 4 punti, ma in 5 partite. Ah, ha già giocato 5, no? Mi sembrano 4. A 5, perché è l'unica che ha giocato 5 partite, perché? E il Betis, perché hanno fatto una partita tra di loro, così. Un calendario molto asimmetrico. Immagino che non può essere una sola, che hanno fatto 5, almeno 2 doveva esserci. E tra l'altro non hanno giocato la 5ª giornata, ma la 6ª. Così. Vabbè. Non si sa perché, vabbè, è successo. Questo è. E, probabilmente c'era la festa patronale in una delle due un punto per parte tra Celta Vigo e Betis nella partita in più, e comunque vede il Celta Vigo lì, Celta Vigo comunque va in Coppa come noi da vincitore della Coppa Nazionale. Sì, è vero. Quindi è vero. affascinante questa. Segna Borja Iglesias allo scadere. Su rigore, pareggia 1-1 contro Girona, segna al 92esimo su rigore, appunto Iglesias. Per quanto riguarda la testa, ovviamente c'è il Real Madrid che mi sembra abbia già capito cosa vuole Xabi Alonso. È partita abbastanza bene con 4 vittorie consecutive, meglio anche del Barcellona che invece una l'ha pareggiata. Sì, ha pareggiato a Vallecas contro il Rayo Vallecano, un bel puntarello d'oro. 1-1, la Lamine Yamal porta in vantaggio i Blaugrana e poi la riprende Fran Perez. E al terzo posto si conferma l'ottimo Athletic Bilbao che dopo la stagione che l'ha portata in Champions, l'ha riportata in Champions. E il clamoroso contratto decennale. Con una roba incredibile, con che clausola sembrava infinita. Doveva essere, cioè, sembrava venduto al Barcellona, no? Se sì, sbaglio. Sì, penso che la stampa sportiva spagnola avesse già fatto la probabile formazione con i fotomontaggi, la maglietta, con la maglia. Era tutto pronto e poi è venuto fuori un contratto di 10 anni per l'Athletic Bilbao, che comunque conferma la buona situazione. Lì vicino il simpaticissimo Getafe. Mamma mia, il Getafe. Che ha 9 punti dopo 4 partite. Squadra simpatia, nel senso che picchiano come dei fabbri, giocano più in difesa che in attacco, però insomma il risultato in questo momento gli arride a loro, e sarebbero addirittura in Champions, sarebbe una grande sorpresa. Partita malissimo la Real Sociedad, ha ceduto Zubimendi all'Arsenal per 100 milioni tipo. Però in questo momento arranca parecchio perché ha solo 2 punti in 4 partite. Anche l'Atletico Madrid è partito non benissimo, ha vinto l'ultima 2-0 con Villarreal, ha perso con l'Espagnol male a Barcellona e ha pareggiato sia con l'Elche che con l'Alaves, quindi non un buon inizio per quanto riguarda l'Atletico, i Colchoneros. Abbiamo sentito la Francia all'inizio dell'intervento con la musica francese. Andiamo a vedere che insomma, la tranquillità per ora del Paris Saint-Germain, ovviamente in vetta alla classifica a 12, al secondo posto Lille, che abbiamo imparato a conoscere e pareremo a conoscere ancora, è una di quelle che confermano, no? Ha 10 punti per il Lille, che è appunto al secondo posto. Poi Monaco e Lione e Strasburgo, una squadra giovane interessante, che è partita abbastanza bene, 9 punti in 4 partite. 6 punti solo per il Marsiglia, che dopo la scazzottata tra Rabiot e Rowe, che sono tornati ieri, non è successo niente, no? Rivisti, no. Ma per in Milan-Bologna, abbastanza lontani, anche lontani, sì. Ma lo dico, gli spogliatoi erano lì vicini, non è successo niente, sono tranquilli. Poi il Nizza, il Lens e il Tolosa. Occhio al derby di Parigi. Ah, è vero, ecco la novità in un certo senso è il Paris Football Club, Paris FC, che è tornato in Liga, è tornato perché in realtà è più vecchio del Paris Saint-Germain. Sì. Aveva vinto gli scudetti, diciamo, tanti anni fa. È un progetto che è ritornato, è collegato credo alla squadra di basket anche del Paris Basketball Club, diciamo così, quella che ha vinto l'Euro Cup e che ha fatto l'Eurolega. È molto interessante che mentre il PSG cerchi di diventare più Parigi che Saint-Germain, cioè il marketing della squadra, il logo, puntano all'identità parigina più che all'identità PSG di club, arriva un'altra squadra che si chiama solo Parigi. Mi sta bene, stecca. Adesso chi volete, quando ci sarà il derby, adesso sarà interessante vedere il più avanti, non è nelle prossime giornate. No, non è imminente. Non è imminente, vedremo. Comunque è partito a metà classifica, 6 punti in 4 giornate per quanto riguarda appunto il Paris Saint-Germain. Non abbiamo più in quest'angolo la Serie D, girone F, era? No, perché dobbiamo occuparci di cose più serie. Esatto, perché insomma... Tu mi dirai, ma esistono cose più serie della Serie girone F? Sì. Sì, in questo momento la squadra che seguiamo grazie a Simone Malone, ormai ci ha passato questa passione per la San Benedettese. Rosso-blu-alè, essendo calcio molto colore per noi, è in Serie C, girone B, è stato inserito nel girone B come l'altra squadra di vicino, come l'Ascoli, quindi tornerà il derby Ascoli-San Benedettese dopo 30 anni, una cosa del genere. Ed essendo noi non residenti nella provincia di Ascoli e non residenti a San Benedetto, potremo valutare. È vero, questo potrebbe essere un'idea di vedere questa sfida, grande sfida. Da tanto, in questo girone spicca il primo posto dell'Arezzo, ma anche il secondo del Ravenna. Tra l'altro salutiamo chi ci sta ascoltando dal DAB a Ravenna, perché è possibile farlo, è la novità della stagione, della 50ª stagione di Radio Città Fujiko, è anche quella che ci si può ascoltare anche da Ravenna, quindi seguiremo questo girone anche per quello. Il Ravenna è partito bene, 4 giornate 9 punti, dietro solo appunto all'Arezzo. L'ultima l'ha vinta contro il Guidonia 2-1. La Sabrinetese ha pareggiato in trasferta contro la Pianese. La Pianese, che squadra di Piancastagnaio, ragazzi. Piancastagnaio, fatemi delle domande. Stadio da 1500 posti, Piancastagnaio. Toscana? Il nome sembra un po' toscano. Appunto, la prima invece è la squadra toscana, l'Arezzo, che ha battuto la Juve Next Gen 3-2. Giusto. E quindi insomma, buon risultato. Comunque, in questo girone squadre di nome ci sono, e ci sono la particolarità di due grandi spareggi, di due grandi derby. Certo, perché c'è anche Perugia Ternana, se non sbaglio. Perugia Ternana, clamoroso. Oltre a. Beh, ce ne sono. Volendo ce ne sarebbero di più. Se Rimini giocherà, Rimini Ravenna anche è un bel derby. C'è anche il Forlì, c'è anche il Carpi, che comunque una Serie A se l'è fatta a un certo punto. Sì, c'è il Livorno, è un bellissimo girone. Bellissimo girone. Livorno, cavolo. Neopromossa anch'essa. Neopromossa, non so perché sabato, giocava sabato il Livorno probabilmente. Sull'autostrada a salire dal mare verso Bologna, in tutti i pannelli dove sono scritti di solito incidenti o cose del genere, c'era scritto tifo del Livorno in passaggio, non so, era un messaggio molto bello, un bel contenuto comunque. Un messaggio generale che andavano probabilmente dove ha giocato loro, adesso te lo dico, perché passavano di lì, non so dove ha giocato Livorno, a Pesaro, erano. Perché in su? Ha fatto un giro stranissimo. Pesaro. Affascinante. No, c'erano questi segnali. Allora, questa settimana inizia la Champions, tra una cosa e l'altra. Eh sì, inizia la Champions. La prima partita, in realtà inizia il martedì, la settimana Champions, con un abbastanza esotico Juventus Borussia Dortmund. Bello. Così bello, ve la butto lì. Ce ne sono anche di altri, ma adesso diamo una scrollatina solo alle italiane. City-Napoli. Ajax Inter, ad esempio, che è un'altra. E l'Atalanta va a Parigi, non dal Paris FC, ma dal Paris Saint-Germain. Quindi insomma, quattro avversarie toste, diciamo così, per l'inizio della Champions. Questa settimana inizia solo la Champions, la prossima settimana inizia l'Europa League. Credo sia solo l'Europa League. Fanno questi due inizi in cui c'è solo una partita, e poi, insomma, dopo giocheranno entrambe, no? Andranno avanti entrambe nella regola che abbiamo conosciuto l'anno scorso, con questo 36 squadre che giocano 8 partite. Calendarione così. A caso, con un criterio, due criterio per fascia. Jupiler League. Un po' Jupiler League, esattamente, un pochino Jupiler League. Direi che abbiamo concluso con le coppe. La prossima settimana ovviamente daremo un'occhiata all'Europa League un pochino più da vicino, per capire chi sono le avversarie del Bologna in questa nuova avventura. Tra l'altro avremo anche la Supercoppa quest'anno. Bologna giocherà anche la Supercoppa. Clamoroso! Quante partite! Ma come fanno quelle delle altre squadre che hanno sempre, tutti gli anni, tutte queste partite? Camminano. Vabbè, siamo arrivati al termine. Tra poco c'è la pubblicità, direi, no? La lanciamo subito? E dopo un grande multisport. Multisport! Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, il ritorno della trasmissione che vi terrà compagnia tutti i lunedì dalle 10.30 alle 12.30 circa. Lasceremo lo spazio subito dopo a notiziario di Popolare Network. Ultima parte, il fritto misto degli vari sport. Ci sarà il basket, ovviamente, durante tutta la stagione. Basket che ha terminato gli europei, c'è stata una bellissima finale tra Turchia e Germania. Allora, ha vinto la più forte. Tu sei più triste che ha vinto la Germania o più contento che ha perso la Turchia? Ma guarda, in realtà la Germania è una squadra campione del mondo, viene dalla vittoria del campionato, sì, del mondo. È una squadra che mi piace per un semplice motivo, perché è stata programmata, diciamo così, c'è stata una scelta della federazione. La Germania per lungo tempo arrivava, non so, oltre le prime 15 anche degli europei, delle nazionali. Ha lavorato molto nelle scuole, molto nelle squadre giovanili, e ha tirato fuori tanti talenti. È vero che sono stati tra i primi a essere i tedeschi, insomma, presenti anche in NBA. Ricordo Detlef Schrempf, quando gli stranieri erano veramente pochi in NBA, era lui tedesco e aveva fatto le scuole là, insomma, quasi americano, però comunque di nascita tedesco. Poi Nowitzki, l'abbiamo visto dopo, e da Nowitzki in poi c'è sempre stato qualche tedesco in NBA. Ce ne sono 6-7 adesso in NBA, non fenomeni. Schroeder non è un fenomeno a livello NBA, non è un fenomeno, però ieri dimostra di essere a livello europeo cinico come i grandi giocatori sanno essere. Comunque Schroeder, 16 punti, 12 assist, grande cancelliere socialdemocratico degli anni 90 e grande cattivo dei cartoni. Anche. Le ha fatte un po' tutte. E ieri ha fatto gli ultimi 8 punti, mi sembra, della squadra, quando c'era bisogno di tirare fuori gli attributi. Una partita che è guidata sempre dalla Turchia. Sembrava, anche la Turchia ha 2 o 3 giocatori molto interessanti che trovano spazio ampio anche in NBA, e la Germania è un po' più lunga, l'ha dimostrato con la vittoria. Per la nazionale italiana, un'eliminazione agli ottavi di finale, se non sbaglio, contro un giocatore fondamentalmente, che è Doncic, che direi che era forte, insomma, abbastanza forte. Credo che abbia fatto 30 punti nel primo tempo. È stato a un certo punto, l'Italia aveva 9 punti, lui ne aveva già 20. Ha chiuso a 42. Comunque, 42. Sì. Sì, secondo tempo un po' calando, anche perché era una squadra con pochi giocatori. Tra l'altro, 2 forti non gliel'hanno dati quelli del defunto Armani Milano, e quindi, insomma, una squadra che aveva poche armi, poche frecce al suo faretra, poi ce n'aveva uno solo, e poi ha incrociato la Germania ai quarti, esce anche la Slovenia di Luka Doncic. Finalina per il terzo posto, Grecia-Finlandia, la sorpresa, squadra rivelazione, la sorpresa dell'Eurobasket. Sono veramente dei gran saltatori, no? Saltano tanto, sono lunghi e saltano. Markkanen è un po' il leader, è da un po' di anni che gioca in NBA, però ce ne sono altri che sono molto interessanti, tipo il Valtur, che sembra un'agenzia turistica, mi sembra che abbia 2 bei garetti, come si dice in questi casi. Ha fatto una meravigliosa schiacciata a tempo scaduto, un tappino al volo incredibile, purtroppo non era buono, però insomma, cose molto interessanti della Finlandia, squadra che ha sorpreso un po' tutti. Dell'Italia salviamo soprattutto, direi, Niang, che purtroppo giocherà in bianco e nero l'anno prossimo. Niang e Diouf forse sono tra i migliori della spedizione, sono un nuovo acquisto e l'altro era già nella Virtus, che ha fatto una bella squadra. È vero che anche Milano ha fatto un'ottima squadra, adesso vedremo Milano come andrà avanti. L'assenza di Giorgio Armani potrebbe creare problemi a una squadra che ha un budget infinito. Sì. E quindi, insomma, in qualche modo una fine potrebbero anche averla in questo momento. Vedremo, insomma, cambierà qualcosa. Hanno preso Poeta come vice allenatore, per dire, Poeta, insomma, allenatore che aveva ben fatto l'anno scorso andando in finale scudetto, quindi insomma non male. Fa il vice a Messina, ha preso Guduric, ha preso gente interessante. Infinita disponibilità economica. Adesso vedremo. Vuol dire anche questo. Per quanto sarà infinita, ecco, questo è il caso. Oltre al basket ci sono stati anche altri tornei mondiali in generale, la pallavolo in particolare, torno sulla grande vittoria le Regas. Delle Regas della pallavolo femminile, veramente eccezionale, con anche un pathos incredibile dovuto alle vittorie su 3-2, semifinale, finale, insomma, molto combattute, con momenti in cui sembravamo persi e poi recuperati. Velasco, secondo me, sa fare l'allenatore non, di pallavolo. Infatti, guarda, non la sinistra riparta da Velasco e dalla sua capacità di non bestemmiare in momenti in cui molti di noi si lascerebbero andare a imprecazioni verso gli altissimi al plurale. C'è un allenatore, adesso non mi ricordo che squadra, c'è un allenatore di pallavolo veneto che allena una squadra tipo Lettonia, Estonia, cose del genere, che durante i time out parla un po' in inglese e poi bestemmia in veneto. L'hanno beccato le televisioni con una serie anche di bestie. Poz ha avuto anche una parentesi così. Poz, ecco, non l'abbiamo detto, non è più l'allenatore della nazionale di basket. Non c'è ancora l'ufficialità di Luca Banchi, ma dovrebbe essere, sì, solo a momenti. Liberato dalla Lettonia. Esatto, lui era all'Eurobasket anche lui, dalla Lettonia, con cui ha avuto ottimi risultati. Tra l'altro è stato anche nominato miglior allenatore dei mondiali, degli ultimi mondiali, con la Lettonia. Quindi insomma qualcosa, lavoro gli va riconosciuto. Esatto, la sa fare, potrebbe essere interessante. Dicevo, pallavolo, adesso inizia invece il mondiale maschile. Vinto e archiviato il mondiale femminile, l'Italia credo abbia battuto l'Algeria come prima giornata, appena iniziato appunto anche quello. Come del resto sono in corso i mondiali di atletica in questo momento, essendo a Tokyo stanno giocando, saltando, facendo le varie cose. Notizie degli scorsi giorni vedevano gli italiani solo malissimo. Alcune medaglie già arrivate, quindi stiamo parlando di mondiali di atletica, già 3 medaglie portate a casa, 2 argenti femminili con la marcia e la maratona e il bronzo maschile con Fabbri, il getto del peso, è arrivato al terzo posto. Peccato, era il leader mondiale con la misura più alta, arrivava ai mondiali come il recordman stagionale, diciamo così, è arrivato comunque un ottimo terzo posto ai mondiali. Comunque la medaglia fa bene, diciamo sono mancati grandi nomi, quello sì, che dicevi tu prima, i più attesi o comunque quelli che, in particolare Jacobs, che comunque ha un po' di anni che non si ritrova. Tamberi veniva da un infortunio, Tamberi inizia a essere un po' avanti anche con gli anni, veniva da un brutto infortunio e non era in forza addirittura la sua partecipazione ai mondiali e non è andato neanche in finale, diciamo, è stato eliminato prima delle qualificazioni, come la Iapichino, che arrivava come leader stagionale, vincitrice della Diamond League per quanto riguarda il salto in lungo femminile. Iapichino, che è un incrocio tra due atleti, cioè nel senso madre e padre, uno Iapichino astista e l'altra è Fiona May, lunghista, quindi lei ha seguito la strada della mamma. Iapichino tra l'altro molto molto arrabbiato, allenatore, papà, coach, spesso li troviamo situazioni anche malate tra queste, nel calcio queste, poi si sono raggiunte delle mette. Anche col tennis, tante nel tennis ce ne sono state di questi rapporti. In questo caso insomma si è visto proprio in diretta televisiva che non era contenta della figliola. Salti in lungo, adesso dovrebbe esserci Forlani, quindi comunque oggi inizia le qualificazioni, e c'è anche l'asta dove c'è allora il primo che si chiama Duplantis, ha tipo saltato 6.32, il secondo 6.08. Sì, è un po' esagerata. Al momento è un po' esagerata. La migliore prestazione del secondo è tipo 30 centimetri più bassa. Sì, non fanno come Bashir e Tamberi quella volta. Non secondo credo. Me oggi non. No, non oggi credo. No. Oggi lì no. È interessante che Duplantis ha imparato da Bubka la tecnica del più uno. Cioè nel senso fare record mondiali sempre alzando di un centimetro l'asticella, così ne fai tantissimi, perché magari tu hai già nelle gambe anche un salto più ampio, ma lo fai uno alla volta. Intanto scrivi. Intanto sì, lo faceva Sergei Bubka al tempo, sempre nell'asta, e Duplantis ha preso il volo da lì, ha spiccato il volo da lì, è veramente una distanza tra il primo e il secondo clamorosa, cioè può essere solo un infortunio o problemi che possono capitare nell'asta. Non è semplice andare a 6 metri e 30 attaccati a un pezzo di manco carbonio. 6-0-8 direi anche che... 6-0-8 anche vero, insomma, potrebbe essere complessa. Comunque quella è, ed è, inizia la gara anche per lui, che è uno dei personaggi più rappresentativi del mondo dell'atletica leggera. A parte altri mondiali non ce ne abbiamo, se non il MotoGP, che è un mondiale, sì, che è un mondiale ancora aperto per puro caso perché in realtà il vantaggio di Marc Marquez sugli inseguitori, ricordiamolo per gli amanti delle statistiche, l'inseguitore di Marc Marquez è il fratello Alex, in questo momento è di 282 punti, quindi gli basterà arrivare nella corsa, cioè se fa 0 punti nella corsa in Giappone a Motegi nella sprint e vince la lunga, è già campione del mondo. Mancano ancora un bel po' di gare. Hanno particolare cui Marquez ha dominato clamorosamente. La cosa incredibile è che con la stessa moto c'era anche un altro pilota, il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, che fa una fatica infernale. È veramente clamoroso, cioè sorprendente. Adesso io seguo poco, non sono non conosco dal di dentro quale possa essere, però guardando due moto uguali, insomma simili, molto simili, ognuno se la tarerà un po' come vuole, immagino, no? C'è un limite sul pilota, però la moto è quella. E come può essere che uno vinca tutte le gare e l'altro dice io non riesco a guidarla, cioè, non arrivo secondo, perché dici primo secondo, vabbè, ci sta. Sì, ma partiamo dal fatto che Marquez è come Verstappen, cioè è il più forte in piazza e basta, ed è anche antipatico per questo, come Max Verstappen è in quella dinamica. Ma là è più antipatico Marquez o Verstappen? Secondo me è più stronzo Verstappen, non è più antipatico, è più malvagio. Marquez è più malvagio, più stronzo Verstappen, sì. Ci sta. Il tema è che i tempi con cui vince le gare, e ne ha vinte tantissime quest'anno, Marc Marquez, sono tempi spesso superiori a quelli con cui ha vinto sulla stessa pista, in condizioni climatiche diverse, quindi non puoi fare un confronto da pari, però girando più piano di quanto girava l'anno scorso Bagnaia, con la moto dell'anno scorso. E quest'anno in pista c'è la moto dell'anno scorso e la moto di quest'anno, e chi ha la moto di quest'anno, se va, va. Cioè non è un problema della moto 2025 Ducati che è peggio della moto 24, è un problema, è proprio un binomio in questo caso, cioè guidatore e moto, è il connubio tra l'uomo e la macchina che non funziona con Bagnaia. C'è anche un problema mentale di Bagnaia che soffre molto questo, la presenza di un altro forte e dici? Il racconto mediatico sulla sua annata finora davvero bruttona, cioè molto deludente, no? In questo momento dopo questo weekend in cui l'Aprilia ha fatto benissimo, Bezzecchi ha fatto una vittoria in gara sprint e un secondo posto giocandosela fino all'ultimo con Marquez, tra l'altro in gara sprint ha vinto festeggiando con un Garpez perché il mio team con 50.000 lire lo faceva meglio, e Bezzecchi in questo momento è a pochissimi punti, è a 8 punti da Bagnaia in classifica mondiale, quindi potrebbe scavalcarlo. E la prima guida della Ducati ufficiale in teoria era Bagnaia, il campione del mondo in carica, e rischia di trovarsi dietro alla Aprilia, che tra l'altro di cui Bezzecchi in teoria non sarebbe neanche la prima guida perché sarebbe dovuta essere Jorge Martin. Segnaliamo che anche KTM, che ha la nave madre in condizioni disastrose, perché KTM ha i piazzali pieni di bici elettriche, è un buco di bilancio mostruoso e verrà, non può essere più ricapitalizzata a soldi dentro, tipo Pozzo dei Desideri, quindi deve fare qualcosa a livello di piano industriale o trovare una nuova proprietà per continuare a permettersi di fare quello che sta facendo, cioè un costosissimo team nella classe regina delle corse di motociclette e una produzione di veicoli di nicchia, tutto sommato, certo, con numeri produttivi piccoli. Pedro Acosta, quando si tratta di andare, va, ha rotto la catena a Misano, che è proprio un incidente di grado zero della tecnica motociclistica, cioè è come la foratura in Formula 1, cioè è proprio una cosa base. Esatto, capita poco spesso. Buona stagione anche per lui, insomma. Gli italiani sulle Ducati vanno tutti, quelli senza Ducati vanno un po' meno, i giapponesi stanno... Honda ha già tirato il culo indietro, ma anche Yamaha non è che stia facendo... Quindi per il momento il movimento MotoGP è un po' così stanco e Ducati, il monomarca Ducati si sta sbrogliando in un modo che in Ducati non si sarebbero aspettati, insomma. Sì, questo vedremo, insomma, aspettiamo solo l'ufficialità, insomma. Il campionato sicuramente non è particolarmente emozionante quest'anno dal punto di vista dei vari risultati, aspettiamo di poterlo definire forse già alla prossima gara, no? il campione del mondiale. A proposito di mondiali, abbiamo parlato di mondiali, quest'estate ci sono stati i World Games. Oh. World Games 2025. Purtroppo in Italia non li seguono. Io ho dovuto addirittura scaricare l'applicazione dei World Games per poter seguire le gare dei nostri atleti in questo che abbiamo già definito le Olimpiadi degli sport non olimpici, cioè organizzata come le Olimpiadi, però di tutti gli sport che non fanno parte del programma olimpico, ed è anche quella che viene utilizzata dagli sport che entreranno alle Olimpiadi come prova generale. Quest'anno ad esempio il football americano, il flag football flag football sarebbe perché hai una bandierina invece di placcare sarà dentro alle Olimpiadi di Los Angeles il flag football, e quindi deve passare prima, testare gli arbitri e tutte queste cose. Purtroppo non siamo riusciti a farci accreditare come radio ufficiale per l'Italia. Non era facile, era a Chengdu, in Sichuan, la provincia di Sichuan in Cina, dove mangiano molto piccante. Quindi per quello, avendo noi problemi digestivi, non siamo potuti andare. No, in realtà mettiamoci lì, segniamoci sul taccuino, nel 2029 saranno a Karlsruhe. Comodo, Germania Chengdu, comoda. Rispetto a Chengdu, sono abbastanza vicini. Dico, la cosa strana è che in Italia non lo fanno vedere. Di solito in Italia, quando vince qualcuno qualcosa, ti fanno vedere, diventa la passione della vela, non so, del tennis in questo momento, di quegli sport che c'è stato un periodo, il biliardo, che facevano vedere il biliardo. Sui War Games niente. Eppure siamo nel medagliere totale della storia dei War Games i primi. Fantastico. Quest'anno non è andata benissimo perché è cresciuta la Cina, giocavano in casa, sono anche tanti, quindi comunque possono, insomma, fare vari sport. Hanno vinto 36 ori, per fortuna nelle altre edizioni avevano vinto poco, quindi non sono ancora lì sotto di noi. Noi siamo arrivati quarti, sorpassati un po' a sorpresa dall'Ucraina, che sorprendentemente troviamo in queste World Games in alte posizioni, e all'Eurovision anche l'Eurovision. Comunque, per dire, l'Ucraina ha vinto 16 ori, 14 argenti, 14 bronzi. L'Italia 13 ori, 25 argenti e 19 bronzi, per un totale di 57 medaglie, che ci fanno la seconda più medagliata dopo la Cina. Clamoroso. Quindi una roba incredibile. Abbiamo confermato alcuni giochi su cui siamo nettamente i più forti e in cui portiamo a casa spesso le medaglie, come il nuoto di salvamento. Esatto, stavo proprio per dirti che l'unico richiamo di Rai News ai World Games è in cima al cielo di Chengdu la medaglia dell'Italia nel salvamento. Il salvamento ne abbiamo vinto tante, perché ci sono vari, c'è i 100 metri, i 200 metri, c'è la staffetta, e in realtà è una gara di nuoto in cui tu ti tuffi da un lato e hai dall'altra parte uno che sta affogando, ovviamente non vero, cioè nel senso una bambola utilizzata apposta per quello. Tu la devi raggiungere e devi riportarla indietro. Clamorosa la 4x25 trasporto manichino. Trasporto manichino, insomma, non è male come gara, no? 4x25 staffetta, quindi insomma cose. E su quello noi dominiamo, siamo sempre tra i migliori, e anche quest'anno abbiamo portato tante medaglie. È andata un po' meno bene invece nel mondo delle bocce. Quest'anno i francesi si sono ripresi un po'. Ma bocce pétanque o tutte, bocce, tutte le bocce? Tutte le bocce, pétanque, riffa, quell'altra, dov'è qua? Andiamo a cercare quali sono le varie medaglie date, no, qui è quello generale sulle bocce. Comunque altre cose interessanti che ho seguito per cercare di capire meglio cosa fossero, ad esempio il fistball. Il fistball non è male, noi potremmo, non c'è l'Italia. Ma è tipo una pallavolo a pugni. Sì, questo è quello che passa, parte la base. Si gioca a pallavolo a pugni, nel senso che puoi colpirla solo col pugno, però giochi in un campo d'erba cioè hai anche il rimbalzo, un po' come il tennis. Ok. Cioè hai la possibilità di fare il rimbalzo. Quindi non è male, perché ti può, cioè, si può anche fare, non è un brutto sport. Stavo cercando nazioni, che, cioè sport in cui l'Italia non aveva buone nazioni per creare una squadra, capito? Perché ho visto l'ambiente in questa, scaricandomi l'app, ho avuto tutte le possibilità di vedere anche all'interno del villaggio olimpico. Questo è un villaggio olimpico da 6.000 persone. È un campeggio di presi bene. Di tutti quelli che fanno sport, frisbee, so. Un campus americano senza armi. Esatto, una roba. Esatto. Tranne quelli che fanno il tiro, che magari. Quindi, hanno. Esatto, sono solo quelle cose lì. Sì, c'è il tiro con l'arco in campagna, ad esempio. Che vai in giro a tirare in campagna. Cioè, ci sono cose interessanti. Peccato, siamo arrivati al termine della trasmissione e dobbiamo lasciare lo spazio alle informazioni, però Road a Karlsruhe ci saremo, a Karlsruhe andremo lì. Ci risentiamo lunedì. Yeah.